essere staccato qualcosa, ma non è stato lì a perdere tempo, se l'ha ordinata nuova. Ci ha preso una bella antenna al Tornado, quella a 5 radiali, molto bella, funziona molto bene. Avanti Carlo. È come quella che c'è da Marco. Esatto, esatto, quella lì. Avanti Marco. Bravo Carlo. Sì, ma l'antenna, quella Mantova 5, non la fanno più nuova. Ma qualcuno ci trova ancora, bisogna sapere dove comprarla, ma qualcuno al nostro magazzino ce l'ha. Però come casa, diciamo, produttrice non la fabbricano più, o sbaglio? No, la Mantova no. Però ci sono due che lavoravano alla Mantova e hanno fatto un prototipo della Mantova, molto più rinforzata, molto più buona, diciamo, come struttura della Mantova. Lavoravano nella fabbrica della Mantova dove facevano le Mantova e loro hanno costruito questa antenna, c'ha mille bulloni, mille cose, lui. Ho capito, ho capito. Peccato, quella era una 5 ottavi se non sbaglio, la Mantova. Sì, 5 ottavi. E poi hanno fatto la Mantova Turbo che non era la stessa cosa. Aveva problemi, entrava acqua, andava in corto, ma dava veri problemi. Ce l'aveva, come si chiama, quello che ho nominato tutto poco fa, di Porto Torres. Praticamente le hanno dato un bel problema. Ho capito, ho capito. Eugenio stai dicendo? No, non Eugenio. Come si chiamava Claudio? Dove viene? E vabbè, comunque già ci siamo capiti. Praticamente lui era proprio di fronte al mare, con le villette che ci sono lì a Balai. Ci sono quelle villette schiera e avevamo chiesto un bel di soldi costa, avevamo chiesto, piacevano la mia ex moglie, la voleva comprare lì. Ho capito, ho capito. Sì. È strano perché se un'antenna riuscita la Mantova 5, chissà perché non l'hanno più fatta, perché come frequenza faceva da 26 a 28, capito? Ed era anche una 5 ottavi, quindi è anche bella stabile con i radiali, capito? Quella la stabilizzano molto col vento, capito? Quindi quando c'è un prodotto che va, non riesco a capire perché non l'abbiano più fatta. Allora, la Mantova 5 c'era il problema che se si calavano le cornacchie si spezzavano i radiali laterali. Però non era un grosso problema perché prendevi i radiali d'alluminio, andavi da Brico, li compravi, li tagliavi su misura, li facevi praticamente perché c'era una boccola per avvitarli, poi quando una volta che si troncava dentro bastava che tu li mettessi il radiale, li facessi un bullone passante ed era andato. Io li avevo messo quelli ripieni perché prima li avevo messo quelli leggeri, quelli vuoti dentro e le troncavo sempre le cornacchie e gli uccelli grossi. Poi ho messo quelli ripieni e quelli pieni non me l'hanno più troncati, capito? Arrivo subito, un attimo, un secondo, arrivo subito. L'unico difetto che aveva la Mantova era quello che se c'erano uccelli grossi, tipo piccioni, cornacchie. La cornacchia era quella più pericolosa perché come andava a prendere la rincorsa per spiccare il volo si troncava. Sì, però vedi, come hai detto tu, era anche un'antenna che si prestava ad essere aggiustata, per dire, si rompevano i radiali, ebbene, li potevi mettere tu magari di alluminio pieno, sempre della stessa lunghezza, e non si rompevano più, quindi addirittura si prestava ad essere aggiustata anche in maniera definitiva, capito? E quindi è strano che non ci sia stata un'altra azienda che a copiarla uguale, a metterla nel mercato, perché ne avrebbero venduto diverse, capito? Perché c'è una ricerca, ho visto, di queste Mantova e non se ne trovano. Si trovano, ma qui in caso li avevamo viste a una fiera, è andata a una fiera del radioamatore e c'erano anche le Mantova. E Mantova 5 e anche la Firenze 2 c'è, la Firenze 1 e la mantova 1, cioè non la Firenze 2, la mantova 1 e la mantova 5, c'erano tutti e due, se le avevamo prese tutti e due, credo le avevamo prese una di una e una dell'altra, mi sa. Adesso così per curiosità sono entrato su Google, ho messo antenna Mantova 5 e ce n'è una in vendita, antenna CB della Sigma Mantova 5 usata, però 170 euro addirittura. Ma cosa, usata non ne avrei preso, magari paga anche difetto. Ma Mantova 5 è tubo normale? Mantova 5 c'è scritto e basta, non c'è scritto turbo. Chissà quanti anni c'ha quella lì. Comunque la mia, io dopo 8 anni così l'avevo scesa, con Fabrizio l'abbiamo tutta ripristinata. Le ha fatto un contorno, le ha fatto il pezzo dove andava anche il PL perché si era tutto quanto arrugginito e non faceva più a metterlo. Abbiamo messo il campo interno più grosso per resistere più watt, l'abbiamo truccata praticamente, ragazzi, dopo l'ho piantata, mi è durata altri 10 anni. Sì, l'unica che si assomiglia come costruzione a quella che è l'assidio che fa questa assidio New Tornado antenna, sempre 5 ottavi lambda, ed ha una frequenza che va da 27 a 30 MHz, potenza massima 300 watt, l'altezza è sempre quella, 7,23 m, e c'ha i radiali, capito? Ha 4 radiali, però come fattura mi sembra molto simile, capito? E costa 113 euro, per cui meglio di prendere quella che si spezza, meglio prendere questa. Allora anche quella c'è un problema dei radiali laterali, perché c'era la Marco Scorpio e ne ha perso diversi di radiali, ne sono usciti. Sempre quel problema c'è, basta mettere quelli ripieni e farli un buco e farli passare un bullone passante e non esce più, non esce più con quelli grossi, non li troccano più. Esatto, infatti prendendo un'antenna del genere, prima di metterla, anche se nuova, converrebbe sfilare i radiali a tondino, che magari se no poi alla fine si rompono, perché magari si poggiano le cornacchie, hai ragione, e quindi se li rompono con gli anni, eccetera, a mettere direttamente quelli ripieni, e così almeno anche se si fermano. E una volta che la metti quella, finché non si rovina tutta, non la togli più. Ma io qui con la mia pignoleria le avevo messo anche i gommini in punta, capito? I gommini, quelli di Venno, da Bricco, ci sono dei gommini neri. Ne ho messo un po' di colla a caldo e gli ho infilato questi gommini, non ne sono più usciti. Io come l'ho piazzati non ne sono più usciti né gommine né radiali, niente. Proprio ho fatto a regola là. Eccoci qua. Ai ai ai. Hai capito? Comunque, quella Tornado, come la prese Eugenio, è buona, è come la Mantova. Però ti ripeto, anche Marco ha avuto i problemi che ha perso per radiali laterali, ma quelli si possono sempre comprare, non è un problema quello. L'antenna comunque va bene. Ho capito già, sì, le cose buone non le fanno più, dai, bisogna sempre metterci mano poi alla fine. Claudio, Eugenio, che antenna si deve mettere? No, l'abbiamo già piazzata l'antenna di Eugenio, è una Tornado 5 radiali, molto, molto robusta, c'è la spirale, sembra una Mantova. Ragione Gianni, va bene, abbiamo già fatto anche le prove, va bene, che c'ha la radio in che gliel'ho portata a fare un controllo, e quindi momentaneamente senza, c'è un baracchinetto, però è in attesa di ritirare la radio, capito? Però le prove le abbiamo già fatte, già va bene. Oh, questo è il capo. E si sente. Non si sente. Non lascio un bacio di mani, che io te lo devo dire, è un'altra cosa. Ma io, cioè, ragazzi, dal 1986 che io uso questo orario 27, e come sapete ho sempre consigliato a tutti, se vuoi una radio insomma che ti permetta di fare bene la 27, chiaramente non al prezzo di un baracchino, te la compri. E molti mi hanno ascoltato, la maggior parte l'hanno provata tutti, poi chi se la vende, chi se la tiene, chi la cambia, chi qui che là, io ne ho due, 4,40, ho deciso di non tenerne più, gli ho dati 4,40 e 4,30, poi alla fine mi sono pentito e me l'ho ripreso, e cioè sia uno che l'altro, capito, perché mi consentono di fare i 10 metri e gli 11 metri, non tanto i 15, 20, 40, gli 80, ci voglio una radio più sofisticata, ce l'ho, quella della Icom, quella che stavo usando poco fa, però per fare bene i 10 metri e gli 11 ci vogliono questi tipi di radio. Il paragone è sempre qual è? Come andare in guerra con una spada oppure con un carro armato, la stessa cosa. Infatti la stessa cosa, vedi anche Carlo, che ne abbiamo parlato, ma già da tanto tempo, già da quando abitava nell'altra casa, aveva il piacere di prendere, ma alla fine si è convinto, se l'ha presa ed è una caguba, non hai bisogno di lineare, non hai bisogno di niente, considerando il fatto che Carlo ha la numera, ma mi arriva S9 qua, S9, pure l'ho provata, c'è una ricezione favolosa, va benissimo, e le consente di fare di tutto e di più con una radio singola, insomma, senza avere altri supplementi, così è Carlo Magno. Esatto, stavo guardando questa Sirio antenna New Tornado, questa che ha messo Eugenio, intorno ai 113 costa ed è alta 7,23 m, capito? Sì, e si assomiglia alla Mantova 5, come, solo che ha, diciamo, degli stacchi nello stilo quello verticale che sale, ha delle giunture nere, vedo, però dovrebbe essere buona come antenna, la Sirio già fa roba buona. Allora, quell'antenna l'ho piazzata io con Massimo Bulldozer, perché era un po' rotoso per lavoro, ho detto passa da una mano perché ho bisogno di una mano. E quegli affari neri che vedi sono eccezionali, perché non ci bisogna neanche vulcanizzarla, sono dei connettori di plastica che una volta che tu avviti con la vitina gli stili, ne infili quel cappuccetto, ma è aderente, lo devi infilare a pressione e ti protegge l'antenna dall'acqua. Io gliel'ho vulcanizzata lo stesso sopra i cappuccetti, però è fatta bene, è fatta molto bene. Ho visto, non è, diciamo che i 113 penso che li vale tutti, dai, dovrebbe essere una buona antenna, capito? Vediamo quando Eugenio gli arriva all'altra radio se riesco a sentirlo da qua, ma penso di sì. Ma guarda che quando io ti ho chiamato a casa sua io ti sentivo bene, benissimo, non ci sono problemi, ho un'ottima resa anche come ricevitore, come ricezione con l'antenna, e poi l'ho già collaudata perché l'abbiamo piazzata venerdì, giovedì, adesso non mi ricordo, se giovedì o venerdì, no, venerdì oggi, mercoledì l'abbiamo piazzata, mercoledì, no, forse giovedì, vabbè, non mi ricordo, comunque l'ha colorata, perché il vento che ha fatto Porto Torce, che ha distrutto mezzo Porto Torce, l'antenna non gli ha fatto niente. No, è quella già bella stabile, poi i quattro radiali mi sa che ha quella, vero? Sì, ha quattro radiali e c'ha gli innesti. Capito, ce n'è uno più grosso e uno più fine che entra dentro. Ho visto dalla fotografia che sto guardando qua, c'è anche su Amazon, 113 euro, capito, se la vuoi prendere c'è in vendita. Lui l'ha presa lì su Amazon, certo, l'ha presa su Amazon, 113 euro, col trasporto mi sembra che è venuta 10 euro in più, una cosa del genere. La mia invece come la Mantova 1, ne ha tre radiali. Sì, la tua è simile alla 1, sì. Ma va bene, i radiali sono più lunghi però, non sono come quelli della Mantova, ma sono più lunghi. Sì, Gianni, mica la Mantova era... radiali in fibra non sono corti, no, assolutamente, nel modo più assoluto. Non mi ricordo quanto è la misura, ma sono abbastanza lunghi. Io ce li ho in fibra originali, io, la mia 91 originale con i radiali in fibra. Un amico che tratta la e perché sono, c'hanno questa cosa di resina, sono fatti di resina, non fibra di resina, mi ha dato un prodotto. Quando io l'ho montata, che erano conservati i radiali ed erano belli, puliti, lucidi, mi ha detto: prima di piazzarli, dagli questa vernice, ok, in modo che quando li ritogli non ti si va, no, il coso nelle mani. Io da poco l'avevo abbassata per fare manutenzione, e i radiali erano lucidi, li toccavo e non succedeva niente. Non si sono pietrificati. Assolutamente, bravo, è una vernice particolare, proprio non fa vetrificare i radiali, capito? Ecco, vabbè, con Fabrizio erano tutti vetrificati, ci abbiamo dovuto mettere i guanti perché se no ti bucano. Esatto. Poi nella Mantova 1, se tu togli, ma devi toglierli bene, devi conservare in modo che poi rimetti i radiali in fibra. Ci sono delle cose all'interno, no? Dove poi vai a stringere il radialino. Se tu quelli li togli con la pinzetta, li lubrifichi, eccetera, puoi mettere anche quelli in alluminio. Io avevo messo tre radiali in alluminio con i tappini, fatta bene, sembrava comprata. Invece me l'avevano rotti subito i corvi a carbonazione. Allora li ho tolti e ho rimesso su in fibra, che fretta, ma non li spezza. Ma se metti quelli ripieni come ho messo io, che non sono butti all'interno, non si rompono più, quindi non me l'avevo spezzati. Ah, ma li spezzava proprio dove c'era, dove incastravano lì, dove faceva l'erba, no? Dove tu li incastravi, li mettevi la vita passare, il rullone passante. Lì spezzava perché faceva leva, come loro spiccava nel volo, un cazzo prendeva. Poi una volta ho guardato su questa qua che c'ho adesso, c'erano tutti gli storni sopra, ma non è andato di me. Ma lì che avete fatto voi con Luca quell'errore? Non avete bucato e avete messo bolloncino passante, non c'era bolloncino passante, perché lì avete indebolito il connettore del radiale. Tant'è vero che io li ho fatti riempire di nuovo, riempire proprio con l'alluminio, ok? Con l'alluminio a caldo, riempire tutti i fori, tutto, fare bene, poi con la moletta rimetterli nuovamente a posto e rifare il buchettino solo sotto per la vite autofilettante. E adesso il piantone, quello che mi ha detto tu, è nuovo, fatticelo di scorta, perché non si sa mai, se c'era qualcosa ce l'ho, no, non si trova, non capito. Vai Carlo, un secondo, devo rispondere sull'altra banda. Vabbè, comunque quando ho messo quelli pieni non li hanno più rotti, probabilmente era proprio il radiale che era troppo debole, come era vuota all'interno, quindi probabilmente è quello che gli faceva spezzare perché erano deboli. Cavolo, sto guardando tutte le antenne che fa la Sirio, cioè la Game Master, no? Costa 160 euro più spese di spedizione, però non mi sembra una buona antenna, capito? Perché non durano molto queste antenne, se fa vento si spezzano e ti durano massimo un anno, se ti va bene due anni, dopodiché sei punto a capo. Sì, e le paghi una marca di soldi. Io l'avevo voluta mettere così, proprio perché mi spezzava il radiale, cosa che per risolvere questo problema me la volevo mettere così. Ce l'avevo un amico, ma ha detto, piantala che è buona come antenna, che c'è il naso, invece non serviva a niente. Si è rotta tre volte, cioè perché è stata piazzata male, non è piazzata male, perché abbiamo la prima volta l'Antonino aveva detto, dai, le conosco io le misure perché ne ha già avuto di chi si antenne, le ho fatto anche, quindi le so tutto. L'avevo piazzata così, ho detto magari avevamo sbagliato le misure, poi la seconda volta io ho preso il foglio e in base al foglio ho rispettato le misure, quindi non si può dire che abbia sbagliato le misure, è stata piazzata come si deve, tutta rinforzata, fatta, messa la resina, guarda, l'abbiamo fatta proprio, non si è rotta dove l'abbiamo rinforzata, si è rotta sotto. L'ideale, per esempio, io per esempio, se dovessi avere la possibilità di mettere l'antenna sul tetto, metterei di nuovo la J-Pole, ma per un semplice motivo, perché quella la metti e non la devi tarare, cioè la metto come me l'aveva data Claudio, capito? La piatti là di stazionarie zero, capito? Tu la piazzi e ti va tranquillamente, ti fa 27, 28 e 26, capito? Tranquillamente. Adesso vedo, perché anche, cioè lunga è lunga, però diciamo è facile da mettere. Una volta che tu la componi, la appoggi sul tetto, poi a tirarla su non è pesantissima, capito? La prendi anche perché è fatta J e quindi la J però ha due collegamenti laterali e tu la prendi là, capito? Ed è bella anche robusta tirandola su, capito? Non è che si flette più di tanto. Nella casa dove ce l'avevo, quando tirava maestrale forte, lì ci toccava, vedevo flettere solo la punta, ma non fletteva tutta l'antenna, solo la parte finale, capito? Però era diciamo non esagerata la piega che prendeva, quindi che ogni volta guardavo, perché anch'io un po' mi preoccupavo, non è che si stetta l'antenna, mi cade sul tetto, eccetera. Invece grazie a Dio lì l'ho tenuta quasi un paio d'anni e diciamo è andata bene. Adesso l'ho tutta ripulita, come il lavoro che dicevi tu prima con la spugnetta abrasiva, capito? Ho usato quel CRC, l'ho pulita, poi ho passato dei pezzi di straccio da buttare via, capito? Gli toglievo tutto il nero, adesso è tutta bella lucida, capito? Poi ho lubrificato tutti i raccordini che ci sono, eccetera, pronta da mettere, così sia una che l'altra, capito? Poi vedo, spero di poterla mettere. Ecco, un saluto veloce a tutti con la mia metà antenna in trasmissione. Domani se non piove, se non c'è vento assurdo, salgo sul tetto, la smonto, così lunedì in ufficio me la faccio saldare, visto che noi abbiamo il TIG per l'alluminio, e me la risolverò così almeno per ora. E gli fa mettere un rinforzo, magari qualcosa per tenere bene. E c'è Santiago 7, dai. Ti ascoltiamo comunque. E meno male che ho questo accordatore che mi fa uscire senza stazionarie, anche se l'antenna è rotta così. C'ho solamente 2 metri di stilo, eh. Gli altri 4 metri e 20 sono coricati sul terrazzo. Ma come mai si è troncata? C'avevi tiranti? No, i tiranti ce li ho sul palo, l'antenna era libera, ma sembrava veramente una canna da pesca per come si piegava, sembrava che ci fosse un'orata attaccata. E si è praticamente l'innesto tra uno stilo e l'altro, che sono stili più o meno da 1 metro e qualcosa, sono ad avvitatura. Quello più grosso sotto c'ha il maschio e si avvita dentro lo stilo che segue. E si è staccata la parte filettata, si è disaldata la parte filettata. Quindi se ce la faccio me lo faccio risaldare, ma poi gli metto anche, prendo un tubo di alluminio fine e gli faccio una specie di manicotto intorno, me lo faccio tutto saldare, così almeno la prima parte rimane più rigida. Luca, ciao, Santiago 9 pieno qua. Lo so, però è sempre con un pezzo di antenna, niente di più. Ripeto, mi salva l'accordatore automatico, ora sono con l'Alan 48, mi salva l'accordatore automatico perché altrimenti avrei stazionaria a palla, penso. Ho capito, sì. Comunque stai uscendo comunque e ti sento tranquillamente. non come prima, perché anche la radio si è abbassata un pochettino, però il segnale è 9 qua, Gianni gli arrivi 7, ma Gianni è più giù di me, capito? Quindi è ovvio, io sono più favorevole verso la tua parte. 7 scarso, è così, 6 e mezzo. E vabbè, comunque è interessante sentirsi. Vabbè, poi se domani riesce a risolvere il problema, tanto meglio, dai. Magari se la fa rinforzare bene e non ha più problemi poi. E qua, grazie a Dio, almeno la mia ha resistito bene a tutto il vento. E si impiegava, sì, ma non più di tanto. No, la mia proprio si piegava, ma molto, ma parecchio, proprio tanto. E niente, al limite da Brico per via Porto Torres prendo un tubo in alluminio, quelli tubo non pieno, no, vuoto, ne taglio un 20 cm e lo taglio, lo allargo, glielo metto a collare e poi glielo faccio tutta la saldatura. E così c'ha un bel rinforzo, almeno nel primo pezzo. Poi la parte sua, visto che è molto elastica, è quella dovrebbe reggere meglio. Ora passo in QRT e niente, ci aggiorniamo. Saluti a tutti. Auguri Luca. Va bene Luca, dai, aggiornaci quando la aggiusterai. Sì, già mi sembra buono come stavi dicendo, fargli un innesto di rinforzo e poi così non speriamo che non ti crei più problemi. Se non la mettiamo agli atti e me ne compareggio un'altra, mai si veda, e me ne prendo una più bella. Vedremo, se risolvo con questa bene, perché poi funziona bene, cioè funzionava bene. Se risolvo così, ottimo, altrimenti cercheremo un'altra soluzione. Ripeto, io con una boomerang uscirei benissimo per la posizione che sono, e trovare una Mantova sarebbe una figata, ma ripeto, siccome la riparazione è a costo zero, perché lo faccio io in officina da noi, lo faccio fare al nostro meccanico dall'alluminio, noi abbiamo un sacco di cisterne in alluminio che viaggiano, per cui saldiamo, ma vengono anche dalla Tirrenia, dal porto con la scala, quella che mettono per l'imbarco dei passeggeri ogni tanto a farsela saldare, per cui cioè, il nostro macchinario d'alluminio è bello potente. Mi faccio fare un manicotto, diciamo, me lo saldo e gli faccio un rinforzo così. E per ora, e poi vediamo se va bene. E niente, ci aggiorniamo domani. Stamattina sono però tagliando all'Audi, cambio olio, filtri, ci dedichiamo un po' alla macchinetta. Luca, stacca tutto che stai uscendo basso basso, prima che ti baci il baracchino. C'è Alghero che sta chiamando, avanti Alghero. Ciao Sergio, ma là è un controllo da Alghero, grazie. Dai, guarda adesso che la radio la pulisco. Guarda adesso se va meglio, 1, 2, 3, 4, 5. Dammi il controllo adesso. Vabbè, sono in compagnia di Carlo e di Luca. Luca, ti sei andato abbassanti, quindi non uscire così che magari rubi. Sergio, ti sento basso basso in mezzo al QRM, ma io c'ho una boomerang sul poggiolo, capito? Non so se tu riesci a sentirmi. Ma tu che antenna hai, l'amico Alghero? Che tipo di antenna stai usando? Fallito. Oh, io non lo sento più. Sparito, ma sicuramente è in macchina, non penso che sia in casa perché prima usciva. Oppure ha cambiato canale, capito? Magari è entrato per un controllo. Tutto lì. E vabbè. E comunque. Buon per rivolgia. Hai ragione, Luca stava andando abbassandosi di radio, il segnale era sempre 9 pieno qua da me, non si muoveva, però la radio non era la stessa, capito, dei giorni prima quando l'antenna era intatta, evidentemente ha stazionarie, metà antenna e quindi non sta uscendo bene. Però però da quello che mi ha spiegato lui, se compra un tubolare di alluminio più grosso che riesce a fare la saldatura dove si è spezzato, magari se glielo saldano bene l'alluminio lo rinforza pure l'antenna, capito? Poi ovviamente dovrà controllare un po' le stazionarie, perché ovviamente stai aggiungendo del materiale, quindi si può dare dei valori diversi, capito? E niente, speriamo che riesca a ripararla. Vabbè. Purtroppo questo tempo di cavolo, io già mi sto sempre controllando e vedo che le stazionarie sono 1-1. Non sono ancora salito sul tetto, sto aspettando per controllare, perché dopo che c'è stata quella folata di vento non vorrei che abbia spostato qualcosa. No, ieri io infatti mi stavo preoccupando quando ho visto Santiago 7, ma è perché avevo attivato involontariamente quell'attenuatore del segnale ricevuto, ATT si chiama, quel pulsantino sotto. Non mi ero accorto di averlo schiacciato, sicuramente prendendo qualcosa l'ho premuto, si è attivato e quindi ti attenuava, capito, il tuo segnale. Invece sei sempre lo stesso, 9.20 qua, tranquillo. Era un attenuatore che serve per quando c'è qualche segnale vicino che lo vuoi attenuare, per non andarti fuori lo scala, non rovinarti tutto. Bene, lo attenui e così risolvi il problema, capito? È per quello che serve. Ma se tu lo tocchi, e poi mi sembra strano, con una radio che mi senti più bene con l'altra, no? C'è più basso di segnale. Beh, la radio per me è nuova questa, nel senso non la conosco, capito? Perché come concezione è una radio che ha più di 30 anni di questa radio, mi sa che è uscita nell'87 questa radio, ed è una radio HF, sì, però diciamo è abbastanza semplice. Ovviamente ci sono tanti tastini in più, capito? E poi le regolazioni tipo del microfono, della potenza, con quelle levettine lì non sono la cosa migliore, capito? Per allungandare quelli si sballano. Però questa è tenuta bene, capito? E già funziona tutto. Poi io non sono uno di quelli che sta sempre lì a toccare, a regolare, capito? Magari si posso cambiare le frequenze e vado a sentire, ad ascoltare, capito? Quello sì, però diciamo come radio già sta andando bene adesso. Ah, una volta che tu la regoli la radio, la devi più toccare, anche perché sono impercettibili quei cursori lì, devi toccare con l'unghia, perché se tu li sposti appena di più, ti può uscire troppo forte o troppo piano, capito? Dipende come lo regoli, però devi usare l'unghia per far la regolazione, perché se lo fai con dito vai troppo avanti. No, l'unghia deve essere tagliata col polpastrello, perché sennò graffi il case. Infatti io già ce le ho corte le unghie, infatti quali unghie uso? Ce le ho corte, no? È talmente piccolino il pirulino che c'è da spostare. No, lo lascio così come l'ho messo, adesso è a metà, quando la radio è calda che l'ho accesa mi va quasi vicino al 10, e poi quando parlo 50, 60, capito, già va bene così. No, c'è anche... No, quella è regolata a caldo, Gianni. Sono stato tutta la mattina lì con lui. L'abbiamo accesa, fatta scaldare tutto, provata, eccetera, le ho anche memorizzata, tutto, le ho fatto vedere il funzionamento, non è roba mia, quindi gliel'ho fatta prendere da una persona seria, non è neanche di Sassari. Non c'erano manco i decimali, ho dovuto mettere gli ultimi due decimali perché non ce n'erano, non l'ho mai usata M. Quindi una volta che è calda, che tu regoli lo slider alla regolazione, che l'avvento va in funzione, non lo devi più toccare lo slider, anche perché se tu ti sposti in FM alla stessa stessa regolazione della M, uguale, non cambia niente. In banda laterale tira tutto il picco massimo, ma non, la regolazione non la devi più toccare, è già regolata. Una volta regoli la M, è regolata per l'FM e per la banda laterale. Sì, sì, sì, già ho provato ed è così come stai dicendo tu. Oggi ho avuto la possibilità di provare. Va benissimo, e ovvio mi devo abituare un pochettino, sono i primi giorni che la sto usando, e quindi, però diciamo che già è abbastanza semplice, dai, se tocchi solo le cose che vanno toccate, lasciando stare potenza, microfono, tutta quella parte destra che c'è, capito, tanto lì poco c'hai da toccare. C'è almeno che stava chiamando. Avanti l'amico Larghero. Ho pensato che ti fosse successo qualcosa, perché di colpo sei sparito e non ti sentivo più. Claudio, avanti per l'amico Larghero. Sì, ciao, buonasera, non so chi sia. Ciao, buonasera, Claudio Spargiero da Sassari. Sì, ma infatti Carlo te l'ho regolato apposta, poi te l'ho già detto, quello 140 e 70 sono dei baracchini a sintonia continua, non sono così difficili da usare. Una volta che esci dalle memorie, lo usi con la memoria, c'hai la commutazione della memoria come il cambio canale del baracchino, uguale, precedenti. Esci dalle memorie, VF1 ti ho messo una frequenza, VF1B ti ho messo l'altra e usi il VFO grande, capito? Non è così difficile da usare. Basta sempre non toccare, perché anche toccando uno può far danno. Ma è già regolata, non hai bisogno di niente. Cosa devi regolare ancora? Con quell'antenna lì non è che puoi andare a 100 watt di portante. Va bene così, 20 watt di portante, 50 modulati, sei a cavallo. Amico di Alghero, chi sei? Avanti, non ho capito chi sei. Sergio Mike Alfa, molto bene Sergio, ok. Non so se ci siamo copiati altre volte, comunque arrivi magnificamente bene qui da me. Segnale buono e radio ottima. Avanti Carlo. Sergio, io lo sento basso basso, comunque buonasera Sergio, dammi insomma ok se mi senti tu, perché io ho un'antenna piccola sul poggiolo, vai pure. Sì Carlo, ti ascolto con una radio di 4 e un segnale di 5-6 ballerino. Carlo. Ti sento. Hai sentito Carlo, ti ha dato 5-6 e radio 4, con chi s'antenna è nata dopo il giorno, va bene, ok Sergio, grazie del controllo, riprendi pure Sergio e così dai un controllo a Gianni. E K, non so chi sia K. Sergio, non lo so come ti stia arrivando io, sto uscendo con il Galaxy, vabbè, era al minimo di potenza perché per usare il lineare, adesso ce l'ho con 9 watt, guarda come sta arrivando. Ok Gianni, tu sei con una radio di 7, fisso, tranquillo, è una radio di 5, proprio pulita e ti ascolto bene. Proprio non lo sentivo, c'era lo sconcessinito, senza volerlo l'ho toccato, non ho sentito il segnale che mi ha dato, perché ho detto come mai non sento più, bisogna che si usato, invece sicuramente invece che il volume ho toccato lo scorcio e l'ho chiuso. Avanti di nuovo Sergio, mi dirai di nuovo il segnale perché mi devi scusare, avevo toccato lo scorcio volontariamente al buio. Cappa, segnale 7 come segnale. Ti rendi conto, caro Magno, 7 a Gianni con l'antenna esterna e 6 a te ti ha dato, con quell'antenna sul poggiolo. Sei una zona favolosa, ma quell'antenna funziona molto molto bene. Molto molto bene. È meglio così, dai, del resto sono in una situazione un po'. d'emergenza e se volevo fare quattro chiacchiere di più non posso adesso. Speriamo in seguito di riuscire a metterla sul tetto e vediamo nella bella stagione se questa cosa riesco a farla. Vai Gianni. Io volevo chiedere a Sergio adesso questo passaggio quanto gli sta arrivando, un po' quanto attaccare. Voglio sapere quanto aumenta questo lineare, guarda bene il segnale. Sì, intorno all'8, un segnale di 8 quasi. Ecco, fatta. Poco incrementa per la lontananza, sembra strano, da 7 a 8, qua fa da 9 a 9,20, vabbè, avanti perché Roberto. Stavo facendo cosa al computer, vi stavo ascoltando, interessante, dai. Saluto Claudio, Carlo e Gianni, è l'amico di Alghero, non so se, vabbè, penso che mi ascolti, nessun problema, qua arrivi 7 a 8 comunque, Roberto Quadrato qua da Sassari, vediamo se mi ascolta. Questo roba è Santiago 7. Ferma tutto. Come Santiago 7? Santiago 7 mi stai arrivando a me. A me 9.10, di solito mi arrivo 9.30. Santiago 7 da me. Sei prendendo due per buona la Mantova. Esatto, un poco. Per qua vediamo cosa c'ho di rosso, scusa un po'. Dai, mi sposto un attimino per non disturbarmi, faccio delle prove. A me mi arrivi 9.30. Sì, è 7, più basso di cosa stai arrivando, di Carlo. Ma stai scherzando? Controlla che c'è qualcosa che non va. Ok, avanti. Oh, cane, riprendi. Dai, io riprendo, vi saluto che devo portare giù il cane, è venuto a avvisarmi, devo essere a Drumi 2 e non mi avevo avvisato ancora, ma è già tardi, dai. Lo porto giù prima che piova. Ci sentiamo ragazzi, statevi tutti bene, buon continuo QSO e io faccio il QRT, dai, ciao a tutti. Ciao Gianni, buona serata e buona passeggiata col cane. Ciao Gianni, tante cosce belle, ci aggiorniamo. Avanti Alghero. Ciao Gianni, buona serata. E saluta il cane. Vedi che non capisci troppo, che fa freddo. E bisogna rientrare subito. E l'ultimo che... Vabbè, giriamo ancora per i saluti. L'hai sentito Roberto l'ultimo che è entrato? Sì, l'ho sentito. L'ho sentito con una radio di 4 e un segnale di 4, più o meno. Ma la radio lo sentivo bene, basso ma bene. Lui se c'è l'antenna a posto dove abita lui deve arrivare più di 9, invece ha qualche problema sull'antenna. Ascolta, io come ti arrivo lì ad Alghero, bene o male? Come sei arrivato in questo momento con un segnale di 5 e una radio di 5, quindi ti sto ascoltando un po' bassi come radio, ma come, cioè la radio è pulita. La passa sull'11. Aspetta. Il segnale 6 a 5. Ok Sergio, ma mi sposto un secondo. No, siamo troppo vicini. Roberto, passa al canale 8. K8. Va bene Sergio, io sono Carlo e ne approfitto per salutarti perché è arrivata l'ora di cena, sono le 8 e mi chiamano, capito? Ce la risentiamo, grazie del QSO, Gianni ti ha salutato, se rimani su questo canale immagino che poi rientrino anche gli altri. Io devo staccare. Ciao Sergio, buona serata e grazie per i controlli.